ad alta voce. Paolo Pierobon legge Le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe. Traduzione di Elio Vittorini. Le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe. Nota introduttiva. Al mio ritorno, avvenuto qualche mese fa negli Stati Uniti, dopo la straordinaria serie di avventure nei mari del sud e altrove, di cui si tratta nelle pagine seguenti, il caso volle che mi trovassi a frequentare alcuni gentiluomini di Richmond, in Virginia, i quali, preso profondo interesse al riguardo dei luoghi da me visitati, cominciarono ad incitarmi, facendomene quasi un dovere, perché mettessi in iscritto e pubblicassi la mia narrazione. Io avevo, tuttavia, svariate ragioni per rifiutarmi di farlo, alcune di natura del tutto personale e concernenti soltanto me, altre d'ordine un po' più generico. Una considerazione che valeva in particolar modo a dissuadermi era che, non avendo tenuto nessun giornale durante la maggior parte del mio viaggio, temevo di non essere capace di scrivere, semplicemente a filo di memoria, un resoconto abbastanza particolareggiato e connesso perché apparisse, qual era in effetti, vero, eludendo quella naturale e inevitabile esagerazione alla quale siamo tutti propensi nel riferire degli avvenimenti che hanno avuto un influsso formidabile sulle facoltà della nostra immaginazione. Un'altra ragione era che gli avvenimenti da narrare partecipavano di una natura così decisamente favolosa che, non avendo per sostenere le mie asserzioni nessuna testimonianza all'infuori di quella di un meticcio, non potevo sperare d'essere creduto se non dai miei familiari e da coloro tra i miei amici che avevano avuto occasione, nel corso degli anni, di apprezzare la mia veridicità, essendo probabilissimo che il grosso pubblico avrebbe giudicato tutta la cosa come un'impudente e ingegnosa invenzione. La sfiducia, inoltre, che avevo delle mie qualità di scrittore mi impediva definitivamente dal condiscendere alle istigazioni dei miei consiglieri. Fra questi gentiluomini di Virginia che dimostravano il più grande interesse alla mia narrazione, in particolar modo per la parte riguardante l'Oceano Antartico, si trovava Mr. Poe, direttore sino a poco tempo fa del Southern Literary Messenger, la rivista mensile pubblicata a Richmond da Mr. Thomas W. White. Egli mi esortò con speciale calore a preparare senz'altro un racconto completo di tutto quanto avevo visto e sofferto e a confidare nella sagacia e nel buon senso del pubblico, insistendo sul fatto, certo plausibilissimo, che la possibile rozzezza letteraria del libro avrebbe aumentato le probabilità che mi prendessero sul serio. Non di meno, io non seppi risolvermi a mettere in opera il suo suggerimento. In seguito, vedendo che ero irremovibile, egli mi propose di permettergli di redigere con parole sue una narrazione della prima parte delle mie avventure, quali le avevo già esposte, da pubblicarsi sotto veste romanzesca nel Southern Messenger. Non trovando a questo da muovere obiezione, acconsentì, a patto che si fosse mantenuto il mio nome vero. Di conseguenza, due puntate del presunto romanzo apparvero sul Messenger di gennaio e di febbraio del 1837, e il nome di Mr. Poe fu, nel sommario della rivista, contrapposto al titolo di ognuno dei due articoli perché si capisse bene che si trattava di finzione. Ma questo ripiego venne accolto in un modo che mi indusse infine a intraprendere una regolare compilazione e pubblicazione delle mie avventure, poiché nonostante l'atmosfera favolosa e ingegnosamente data, pur senza alterare né deformare un solo fatto, a quanto si era stampato sul Messenger, il pubblico si dimostrò per nulla disposto ad accettarlo come una favola, e parecchie lettere che manifestavano una convinzione del tutto opposta furono ricevute da Mr. Poe. Io ne conclusi che i fatti del mio racconto erano di tale natura da portare implicita la prova sufficiente della loro autenticità e che avevo da temere ben poco l'incredulità del pubblico. Ciò esposto, sarà facile riconoscere quanto delle pagine che seguono presumo scritto di mia mano, e così pure convincersi che non v'è nessuna esagerazione dei fatti nelle pagine scritte da Mr. Poe. Anche per quei lettori che non hanno visto il Messenger, sarà superfluo notare dove finisce la parte pubblicata in quella rivista e comincia la mia. Senz'altro lo si avvertirà alla differenza di stile. Arthur Gordon Pym. chiamo Arthur Gordon Pym. Mio padre era un rispettabile commerciante in articoli marittimi a Nantucket, dove sono nato. Il mio nonno, da parte di madre, era notaio e aveva una buona clientela. Fortunato in ogni cosa, egli aveva speculato con molto profitto sui capitali della Edgerton New Bank quando questa era stata costituita. In tal modo e con altri mezzi ero riuscito ad accumulare una notevole somma di denaro. A me egli era affezionato, ritengo, più che ad ogni altra persona al mondo, per cui io speravo di ereditare alla sua morte la maggior parte della sua fortuna. Quando ebbi 6 anni, egli mi mandò alla scuola del vecchio Mr. Ricketts, un bravo uomo con un braccio solo e delle maniere eccentriche, che chiunque abbia visitato New Bedford conosce molto bene. Alla scuola di Mr. Ricketts rimasi sino a 16 anni. La lasciai per entrare nell'accademia di Mr. E. Ronald, che era in cima alla collina. Lì strinsi intima amicizia col figlio di Mr. Barnard, un capitano di mare, che in genere viaggiava per conto della ditta Lloyd and Vredenburg, ed è anche lui conosciutissimo a New Bedford e deve avere, ne sono sicuro, parecchi parenti ad Edgerton. Il ragazzo si chiamava Augustus e aveva 2 anni più di me. Egli era stato a bordo della John Donaldson con suo padre durante un viaggio di caccia alla balena e continuamente mi parlava delle sue avventure nel sud dell'Oceano Pacifico. Spesso io mi recavo insieme a lui nella sua casa e vi passavo la giornata e qualche volta anche la notte. In tal caso occupavamo lo stesso letto ed era certo che egli mi teneva sveglio fin quasi al mattino raccontandomi delle storie intorno agli indigeni dell'isola di Tinian e di altri luoghi che aveva visitato nel suo viaggio. Così finii per prestare il più vivo interesse a quanto egli andava dicendo e a poco mi prese una voglia matta di correre il mare. Possedevo un battello a vela chiamato Ariel che poteva valere un $75, fornito di una specie di mezzo ponte e armato da sloop. Non ricordo più che tonnellaggio facesse, ma è certo che poteva contenere 10 persone senza che vi si stesse pigiati. Con questo battello noi si prese l'abitudine di darci alle più matte scappate di questo mondo, tanto che se oggi ci penso mi sembra il più assurdo dei miracoli d'essere vivo. Riferirò una di queste avventure a guisa di introduzione per il più lungo e ben più importante racconto che sono in procinto di fare. Una sera c'era festa in casa di Mr. Barnard e alla fine Augustus e io ci trovammo non poco esaltati dal vino. Come d'abitudine in tali casi, io preferii dividere il letto del mio amico in luogo di tornare a casa mia. Era circa 1 quando gli invitati se ne andarono ed egli, così mi parve, si addormentò subito profondamente e senza dire una parola intorno al suo soggetto favorito. Ma poteva essere passata appena mezz'ora dal momento che ci si era messi a letto e già cominciavo ad assopirmi anch'io quando ecco che lui, saltato su di colpo, giurò con una formidabile bestemmia che neanche per tutti gli Arthur Pym della cristianità sarebbe rimasto a dormire mentre soffiava un così bel vento di sud-ovest. Mai avevo provato tanta sorpresa nella mia vita. Non capivo che cosa intendesse dire e pensavo che il vino e i liquori bevuti l'avessero messo del tutto fuori di sé. E però lui continuò a parlare con calma estrema, dicendo che sapeva bene come io lo credessi ubriaco, mentre mai nella sua vita era stato più lucido di mente. Solo che era stufo, aggiunse, di stare in letto come un cane con una notte così bella e che voleva alzarsi e vestirsi per andare a fare una gita in battello. Io non saprei dire cosa allora mi prese, ma è certo che non appena le parole gli furono uscite dalla bocca mi sentii penetrato dall'entusiasmo e dal piacere più grande e giudicai la sua insensata idea come una delle più belle e più ragionevoli di questo mondo. Tirava vento con una furia quasi da tempesta e faceva freddissimo, poiché ci si trovava nell'ottobre avanzato. Saltai fuori dal letto, tuttavia, come rapito da un'estasi, e dichiarai al mio compagno che mi sentivo non meno coraggioso di lui e non meno stufo di starmene rannicchiato a letto come un cane e non meno pronto di tutti gli Augustus Barnard di Nantucket a far baldoria. Non perdemmo tempo a vestirci e a correre verso il battello. Esso era ormeggiato alla vecchia gettata in rovina nei pressi del cantiere Penky & Company e col parapetto quasi dava di cozzo nelle scabre travi di questa. Augustus vi saltò dentro e subito, poiché era mezzo pieno d'acqua, si mise a vuotarlo. Dopodiché issammo il fiocco e la vela maestra, pigliando il vento in pieno, e ci slanciammo audacemente al largo. Il vento, come ho già detto, soffiava freddo da sud-ovest e Fredda e chiarissima era la notte. Augustus aveva preso il timone e io mi tenevo vicino all'albero sopra il ponte. Si filava dritto a grande velocità. Né alcuno di noi aveva più detto una parola da quando ci si era staccati dalla gettata. Allora io chiesi al mio compagno quale rotta intendesse tenere e per quando pensasse di tornare indietro. Egli fischiettò per alcuni minuti, poi mi disse sgarbatamente: «Io per me vado per mare. Tu puoi anche tornartene a casa, se ti pare». Lo guardai e mi accorsi subito che, a dispetto dell'aria disinvolta che si dava, egli era in preda ad una viva agitazione. Potevo vederlo distintamente al chiarore della luna. La sua faccia era più pallida del mare e la mano gli tremava talmente che a stento riusciva a reggere la barra. Qualche cosa doveva andar male, senza dubbio, e me ne allarmai nella maniera più seria. A quell'epoca io sapevo ben poco della manovra d'un battello, per cui mi trovavo a dipendere interamente dall'arte nautica del mio amico. Il vento, inoltre, era ad un tratto rinfrescato e ci trascinava a tutta forza fuori dalla deriva di terra. E però io mi vergognavo di lasciar trapelare in qualche modo dell'ansia e per quasi mezz'ora mantenni un risoluto silenzio. Ma poi, non potendo più contenermi, dissi ad Augustus che sarebbe stato opportuno tornare indietro. Come già dianzi, per circa un minuto egli non diede segno di badare alle mie parole. «Subito», fece poi. «Tempo ne abbiamo. Subito saremo a casa». Io mi aspettavo una risposta così, ma nella sua voce c'era qualcosa che mi riempì di un indescrivibile senso di paura. Di nuovo lo osservai con attenzione. Aveva le labbra perfettamente livide e le ginocchia gli tremavano tutte e due con tanta violenza che egli pareva appena capace di reggersi in piedi. «Per l'amor di Dio, Augustus!» gridai stavolta, atterrito. «Che hai? Che succede? Che vuoi fare?» «Che succede?» balbettò lui con aria di grande sorpresa. Ma al tempo stesso si lasciava sfuggire la barra di mano e cascava bocconi sul fondo del battello. Che deve succedere? Nulla succede. Andiamo a casa, non lo vedi?» Tutta la verità mi balenò allora alla mente. Egli era ubriaco, bestialmente ubriaco, e non poteva più reggersi in piedi, né parlare, né vedere. I suoi occhi erano perfettamente vitrei, e quando io, all'estremo della disperazione, lo lasciai andare, rotolò né più né meno come un ceppo tra l'acqua del fondo da cui lo avevo sollevato. Era chiaro che durante la serata doveva aver bevuto più di quanto sospettassi e che la sua condotta nel letto era stato il risultato di un'ubriachezza intensa, concentrata. Voglio dire, di una di quelle ubriachezze che, come la pazzia, rendono spesso chi ne è vittima capace di conservare i modi di una persona in pieno possesso delle proprie facoltà. L'aria fredda della notte aveva avuto tuttavia il suo effetto. L'energia mentale aveva cominciato a risentirne e la sensazione confusa che egli, senza alcun dubbio, aveva dovuto provare della sua pericolosa situazione aveva contribuito ad accelerare la catastrofe. Adesso egli giaceva del tutto inerte e non c'era nessuna probabilità che il suo stato mutasse prima di qualche ora. È impossibile farsi un'idea del grado estremo di terrore a cui ero arrivato. I fumi del vino si erano evaporati, lasciandomi doppiamente timido e indeciso. Sapevo di essere del tutto incapace di manovrare il battello e che la furia del vento e la violenza del riflusso avrebbero potuto da un momento all'altro condurci a perdizione. Era evidente che un uragano si stava addensando dietro a noi e che, mantenendo la stessa rotta, ci saremmo trovati prima dell'alba fuori di vista dalla terra, senza bussola, come eravamo, né provviste. Questi pensieri e mille altri non meno paurosi mi balenavano alla mente con una rapidità che mi travolgeva e per qualche minuto restai come paralizzato, incapace di fare uno sforzo qualsiasi. Il battello filava sull'acqua col vento in piena poppa, ad una velocità terrificante, senza un terzarolo né al fiocco né alla vela maestra per ammainare, infilando le ondate di piena prua. Era un vero miracolo che non scoffiasse, giacché Augustus, come ho detto, aveva lasciato andare il timone e io ero troppo agitato per pensare a impadronirmene. Comunque sia, esso tenne il vento, per fortuna, mentre io a poco riacquistavo parte della mia presenza di spirito. Ma il vento andava sempre paurosamente aumentando e ogni volta che dopo esserci tuffati ci si risollevava, l'ondata ricadeva a spazzare il cassero, riempiendoci d'acqua. Inoltre io ero così agghiacciato nelle membra da aver quasi perduto ogni specie di sensibilità. Ma alla fine, risvegliatasi in me l'energia della disperazione, mi lanciai sulla vela maestra e disormeggiai ogni cosa. Come era da aspettarsi, la vela volò fuori bordo da prua, subito impregnandosi d'acqua e trascinandosi secco l'albero di schianto. Quest'ultimo incidente ci salvò da un'immediata rovina. Rimasto col solo fiocco, mi trovai in grado di bordeggiare, sicché, per quanto continuassimo ad imbarcare, di tratto in tratto, delle pesanti ondate, il pericolo di una morte imminente era per ora scongiurato. Presi allora il timone e respirai con più libertà, vedendo che ci restava ancora qualche speranza di salvezza. Augustus giaceva sempre privo di sensi nel fondo del battello, e come correva pericolo di annegare per via dell'acqua che dove egli era caduto raggiungeva quasi l'altezza di un piede, io mi ingegnai di sollevarlo un po' e riuscii a tenerlo seduto passandogli intorno alla vita una fune che assicurai ad un anello del ponte. Accomodate così le cose, intirizzito e sconvolto qual ero, nel miglior modo che mi fu possibile, raccomandai l'anima a Dio e mi preparai a sopportare quello che sarebbe avvenuto con tutta la forza d'animo di cui potevo disporre. Non appena avevo preso codesta risoluzione, ecco che, ad un tratto, un alto, lungo grido, un urlo, pervase, come rompendo dalle gole di mille demoni, lo spazio tutto intorno e di sopra il battello. Mai dimenticherò l'acuta fitta di terrore che provai in quel momento. I capelli mi si rizzarono sul capo, sentii il sangue congelarmisi nelle vene, il cuore mi si arrestò, e senza neanche alzare gli occhi per rendermi conto della ragione del mio terrore, mi buttai giù, a faccia sotto, privo di sensi, sul corpo di Augustus. Quando ripresi i sensi, mi trovai nel castello di una grossa baleniera di Nantucket, il Penguin. Avevo intorno diverse persone chine su di me, e Augustus, più pallido d'un morto, tutto intento a frizionarmi le mani. Vedendomi aprire gli occhi, le sue esclamazioni di riconoscenza e di gioia strapparono, a volta, risa e lacrime ai personaggi dell'aria rude che ci circondavano. Quindi il mistero della nostra salvezza fu ben presto spiegato. Noi eravamo stati investiti dalla baleniera che navigava verso Nantucket, con tutta la vela che poteva arrischiarsi a tenere spiegata, e di conseguenza correva quasi in perpendicolare alla nostra rotta. Parecchi uomini stavano in vedetta a prua, ma essi non s'avvidero del nostro battello, se non quando era impossibile evitare l'investimento e le loro grida d'allarme erano state appunto quelle che mi avevano terrificato. Il grosso scafo, mi si disse, c'era subito passato addosso con la stessa facilità con la quale il nostro minuscolo vascello sarebbe passato sopra una piuma e senza riceverne il minimo ostacolo alla sua corsa. Non un grido si levò dal ponte del battello investito. Solo si poté avvertire un leggero scricchiolio che si confuse al ruggito del vento e dell'acqua nell'attimo in cui la fragile imbarcazione, già sommersa, venne a sfregarsi lungo la chiglia del suo annientatore. Ma non ci fu altro. Ritenendo il nostro battello così disalberato com'era, nient'altro che un guscio inservibile abbandonato alla deriva, il capitano E.T.V. Block, da New York, voleva proseguire la rotta senza preoccuparsi oltre dell'incidente. Per fortuna, due delle vedette si misero a giurare di aver visto per certo qualcuno al timone, sostenendo che forse era ancora possibile salvarlo. Gli uomini volarono ai loro posti e la nave virò di bordo a perfezione. Tutto questo non aveva richiesto meno di 5 minuti, cosicché si supponeva già quasi impossibile salvare qualcuno, ammesso che qualcuno ci fosse stato a bordo del battello. E non di meno, come il lettore sa, Augustus e io fummo soccorsi e salvati. Il Penguin entrò in porto verso le 9 del mattino, dopo aver affrontato una delle più rigide libecciate che abbiano mai soffiato dinanzi a Nantucket. Augustus ed io aggiustammo le cose in modo da essere in casa di Mr. Barnard per l'ora di colazione, che, fortunatamente, era stata ritardata per via della festa della sera prima. Suppongo che tutti a tavola fossero troppo stanchi per fare attenzione al nostro aspetto sfinito, poiché, a rivelarlo, non sarebbe certo occorso un esame meticoloso. D'altra parte, gli scolari sono capaci di compiere miracoli in fatto di inganni. Io non credo che qualcuno dei nostri amici di Nantucket abbia avuto il minimo sospetto che la terribile storia raccontata in città da certi marinai a proposito di un vascello da essi mandato a picco e di 30 o 40 poveri diavoli rimasti annegati potesse riguardare l'Ariel, il mio compagno e me. Da allora noi due si è tornati spesso a parlare della cosa, ma non una volta senza un brivido. In una di queste conversazioni, Augustus, con tutta franchezza, mi confessò che mai egli aveva provato un così angosciante terrore come nel momento in cui, sul nostro battello, s'era accorto del suo stato estremo di ubriachezza e della sua impossibilità di sottrarvisi.